questa è la mia storia. Non parlerà di gloria, ma di sudore, dolore, imprecazioni, convinzioni, illusioni, strade in salita, burroni, astinenza e passioni, sofferenza, gioia, arcobaleni e tuoni. Classe 89, genovese dalla nascita, cullato da Campomorone, una vita classica. Dentro un paese tra periferia e campagna, coi disagi e coi vantaggi di chi la mattina si alza all'alba, perché il centro non è poi così vicino. Perché per arrivare al treno prendi la corriera o il motorino, dove le voci girano, si spargono i pettegolezzi. Tu li ascolti e se li fanno su di te, li disprezzi. Fuck. Pochi mezzi, talvolta troppi scazzi, perché il cuore a pezzi e sale a piedi monti dietro a sti palazzi. Le compagnie sono diverse da quelle del centro, con certi amici cresce e condividi ogni momento. Ho la fortuna di aver avuto gente al mio fianco, che ha fatto bene a darmi qualche schiaffo ogni tanto, che mi ha insegnato e mi ha seguito, che non mi ha snobbato neanche quando ero un pedito. Ho 14 anni, comincio ad andare giù a Sampi. Enrico Fermi, la mia scuola, che ricordi e che rimpianti. In quel penultimo banco, sempre con l'aria sognante, la prof che spiega io con la mente distante. È un istante che resta impresso, è un'istantanea che resta un po' sbiadita, ma è lo stesso. Il ricordo resta vivo, adesso lo sto rivivendo. Racconto la mia storia con un brivido dentro. Notti in cui grideresti al mondo, io l'ho fatto scrivendolo su un foglio. Dentro ad ogni parola nella quale ti ritrovi e nelle sensazioni che provi. Sta vita sai sembra impossibile, ti lascia un marchio incancellabile. Sai che è dura, ma devi andare fino in fondo. Ricordo i primi pezzi, le prime rime forzate, anche le prese per il culo per non essere nato capace. Ho cominciato con il rap un po' così per gioco, ma dentro sapevo che non sarebbe durato poco. Insieme a Willy e poi da solo, negli anni bui della mia vita, col morale che toccava al suolo. Niente rose e fiori come crede chi non mi conosce. Certe cose le ho tenute dentro, sempre nascoste, come se nulla fosse, con rabbia e poche armi. Non avevo i beat, ho cominciato a farli, metriche scarse restando nelle mie trincee. Poca fiducia ma con la forza delle idee, a bolsa trovo i miei fratelli di passione. Uno l'ho anche perso, solo a dirlo sento che viene il magone. Ripenso spesso a lui, soprattutto quando scrivo, perché con lui ed Andre abbiamo fatto il salto decisivo. Ho dovuto studiare, anzi ho potuto e l'ho fatto, per non finire disoccupato, schiavo di un contratto. Forse ho solo ritardato l'eventualità, lo sarò lo stesso, avrò la mia chance. Non parlo di rispetto, per me sottointeso, non perdo l'occasione, lo dimostro in ogni azione. Fare musica è molto di più di un'emozione, è una ragione, anche se ho torto seguo la sua direzione. Notti in cui grideresti al mondo, io l'ho fatto scrivendolo su un foglio. Dentro ad ogni parola nella quale ti ritrovi e nelle sensazioni che provi. Sta vita sai sembra impossibile, ti lascia un marchio incancellabile. Sai che è dura, ma devi andare fino in fondo. Ho sempre avuto poco tempo per la musica, ma ogni volta che mi ci metto do il 300%. È difficile continuare quando in un paese di 7.000 abitanti sei solo a reppare. È difficile quando hai impegni grossi coltivare la tua passione. A volte sembra che fai a pugni con il tempo, ma so che vale la pena lottare per questo. Pronto? Bella Mike, sono Marco. Ciao Marco, dimmi. Volevo solo dirti che non sei più da solo in zona. In che senso? Ci stai per un pezzaccio. Grande! E adesso chi ci ferma?